Ingiustizia. Predisposizione naturale contraria alla virtù della giustizia. Beh, in fondo è vero. La giustizia è un concetto talmente unico, raro, da essere considerata addirittura una virtù. Chissà se voi siete stati mai vittime di ingiustizia. Cioè, nel senso, vi hanno mai accusato di qualcosa che non avevate mai commesso? A me sì. 1990 e qualcosa. Appena trasferitomi qui da Napoli, terza liceo, in classe un giorno sparisce un portafoglio. Ed in men che non si dica, tutti gli occhi dei miei compagni su di me. Scusate, ma perché proprio a me state guardando? No, ma Napoleta caccia il portafoglio. Ma quando avrei rubato sto portafoglio? Sono stato tutta la mattina in classe con voi, non sono nemmeno andato a fare pipì. Grazie, perché voi avete la tecnica e noi non se ne siamo accorti. Alla fine si è scoperto che il portafoglio il mio compagno se l'era dimenticato a casa. In effetti io per loro, almeno all'inizio, ero un emigrante, ero uno straniero e quindi ero trattato con sospetto. Mi sarebbe piaciuto però essere chiamato semplicemente straniero. Invece mi hanno chiamato in tutti i modi. Ehi tu, amico, amore, carissimo, coso, fratello, giovane, giovanotto, signore, biondo. Vabbè. Mi sarebbe piaciuto perché la figura dello straniero è sempre stato qualcosa di affascinante. Ad esempio, i film western. Lo straniero era sempre colui che arrivava da lontano, da molto lontano, da qualche landa sperduta del Tennessee. La sua missione? Liberare la città dai cattivi, dai banditi, dagli sceriffi corrotti. Ehi voi, avete finito di terrorizzare questa povera gente. Ehi straniero, hai fatto male a metterti contro di noi. Primo piano sugli occhi, risposta sbagliata. Ma lo straniero può essere anche l'ultimo acquisto di una squadra di calcio. Magari è anche il più scarso giocatore sulla faccia della terra, ma è pur sempre lo straniero. Ci ha accattato un straniero. Oppure lo straniero è anche l'ultimo arrivato in un gruppo di amici in vacanza che magari si sfida in partite interminabili di ping pong all'ultimo sangue. E anche lì lo straniero ha il suo fascino. Straniero. S-T-R-A-N-I-R-O. 9 lettere. Sì. Durante la mia preparazione agli esami, nelle pause per tenere allenata la mente, ero solito fare due cose. Una era la settimana enigmistica, l'altra dizionario dei sinonimi e dei contrari. Mi piaceva prendere una parola a caso e leggere i sinonimi e i contrari di questa parola. Ad esempio, mosaico, ecco, mosaico, arte musiva, tecnica, collage, mescolanza. Straniero, proprio straniero. Estero, forestiero, esotico, avventizio, allogeno, che significa allogeno? Nemico invasore. Eh già, ci stiamo abituando a considerare lo straniero un nemico che invade la nostra terra, le nostre cose, le nostre tradizioni. Le navi che vediamo attraccare a Lampedusa, negli anni 90 era Brindisi, no? Scatolette piene di immigrati stretti gli uni agli altri come sardine, che scappano dalla guerra, che fuggono dalla morte per andare incontro a una chimera chiamata libertà. Beh, una volta erano navi dai nomi romantici, dai nomi eleganti ed importanti. La Romanic, Principe di Piemonte, la Provence. Navi che tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento portano con sé i sogni e le speranze di tanti italiani che da nord a sud emigrano negli Stati Uniti, in Brasile, in Ecuador, in Argentina. Vasti territori dai grandi appezzamenti, quindi grande richiesta di manodopera. Quella terra era la loro terra promessa. Ehi, Cine Lomba, ma quando è che stiamo viaggiando? Ecco da Giaricere, saranno un paio di settimane. A me mi pare una mise. Tu sai, compa, il tempo che ancora pare che non passa mai. E dal... Cine Lomba, ma tu tieni a qualcuno che ti aspetta all'America? No, compà, i sacci sull'aghi mi stungo allontanando. Io ho già lasciato tutta la famiglia amica. Però tengo la speranza che a New York mi possa raggiungere. Ma secondo te ne vale la pena? Speriamo di sì. Tengo paura e mi avuta. Tengo paura e guarda quella che mi lascia a rete, mi fa sospirare. Ma vena una chiagnera, si solo pensa, ogni mattina persa rindovinta, a quando ti arriva a Jack, perché sentiva fritta. Soltanto mare annanza a me che va, ma la speranza ce la posso fa, tengo coraggio, va cominciare a campare. Amore mio, non ti preoccupare, rinci la casa, che va là, fa sì che la vita vostra più meglio sarà. Tu aspettami, a cominci a correre, e prima o poi tu sai che torna, per avere insieme a notte, che schiara giorno. Soltanto un mare non sa mica va, ma la speranza già pozza fa. Tengo coraggio, va cominciare a campare. A notte ca, ma aspetta là, sarà fredda, ma per me a cucca, abbracciato pensiere voi, che state ca. Buona fortuna, compà. Buona fortuna a te. Chissà se ne vale realmente la pena. In fondo, con quel viaggio, molte persone sono disposte ad abbandonare la propria terra, le proprie tradizioni per andare incontro a un paese enorme, a un paese pieno di ignoto, un paese sconosciuto. E lo fanno semplicemente per regalare a se stessi e alle loro famiglie una vita migliore. Quando vengono a mancare le condizioni minime affinché un uomo possa essere felice e desiderare un futuro migliore, beh, si è spinti a cercare altrove, a crearsi una possibilità da un'altra parte. Basta, ho deciso, mollo tutto e mi apro un baretto alle Barbados. È quello che spinge molti giovani a crearsi una possibilità in un'altra nazione, in una cultura che possa accogliere il loro desiderio di sentirsi utili alla società, al mondo e a loro stessi. Ed oggi, come allora, non è lo stesso desiderio. Con quanta leggerezza vi sentite spinti ad abbandonare la vostra patria? E che cosa intende per patria, signor ministro? Una massa di infelici. Piantiamo grano, ma non mangiamo pane bianco. Coltiviamo la vite, ma non beviamo il vino. Alleviamo animali, ma non mangiamo carne. Ciò nonostante voi ci consigliate di non abbandonare la nostra patria. Ma perché patria è una terra nella quale non si può nemmeno vivere del nostro lavoro? Leggerezza. Per una scelta così gravosa. E i debiti. E le rinunce. E la paura dell'ignoto. What's your name? Come ti chiamo? Salvatore. Surname o cognome De Simone. Any disease to declare? Tiene qualche malattia? No, signore, mi vedete, sono sano come un pesce. Ok, go ahead, it's your turn. Thank you. Quando capo tiene nu cavallo? Una. Quando braccio tiene nu cristiano? Due. Quanto piede tiene la sedia dove sei seduto? Signore, ma che domanda mi fa? Quattro. Foto tal? Tengo un paio di braccia. Una testa. Quattro piedi. Sei. Sei sicuro? Un paio. Ah, perché ho contato un paio di... No, sono sette. Ok, ok. So, se un calzolaio acconcia le scarpe e un pescivendolo vende il pesce, mangerà più pesce uno calzolaio o venderà più scarpe uno pescivendolo? Signore, ma che domanda mi fa? Ma vi riferite a qualcuno in particolare? Qualcuno che ha viaggiato con me? No? He doesn't know what I'm talking about. In che anno siamo? In che anno siamo? Io sono partito, che era 15 di dicembre. No, se è passato un mese, stiamo nel 1908, io sono partito, siamo nel 1909? 1909! Nel 1909, sulla Romanic, diretta in Massachusetts, insieme al fratello Sabino, c'è anche un giovane calzolaio di Torre Maggiore, provincia di Foggia. Il suo nome? Ferdinando Sacco. Per gli amici, Nicola. Nicò, sento deciso. Qui non ci sta più niente da fare per me. Non ci sta più niente da fare per noi. Io me ne vado all'America. E tu vieni con me. All'America? Ma che dici, Sabi? Io sto tanto bene qua. E quello non mi manca nulla. Ed è vero. Nicola sta tanto bene là. Non gli manca nulla. Proviene da una famiglia di produttori agricoli, di vino ed olio. La sua situazione non è così disperata dal dover emigrare, ma decide, nonostante ciò, di farlo. Ha un po' paura, in fondo, ha soli 17 anni. Ma tanto c'è Sabino. Nei primi 3 anni lavora soprattutto come operaio, prima in una fabbrica di costruzioni stradali, poi in una fonderia. Tutto sembra andare per il verso giusto e poi ci sta Sabino. Aspetta, Nico, io ti devo parlare. Mi pare che tengo la scarlattina. E quindi io qua non ci posso più stare. Nico, mi mandano indietro all'Italia. E io? E tu devi stare qua. Sei rimasto solo, Nico. Ma tu sei un giovane in gamba. Tu ce la fai. Adesso Nicola è realmente spaventato. Ha perso anche quell'ultimo legame con la sua famiglia, con la sua terra. Si ritrova solo, meno forte e senza Sabino, con davanti gli Stati Uniti d'America. Stati Uniti d'America, il luogo delle opportunità, dove qualsiasi sogno può avverarsi, ma all'epoca tutt'altro che accogliente. Infatti, fin da subito, gli americani non accettano di buon grado l'arrivo di questa orda di immigrati, soprattutto italiani, che loro simpaticamente chiamano macaroni, oppure WOP, without passport, mentre loro sono WASP, white, anglo-saxon and protestant. C'è da dire che non ne fanno mistero di questa loro simpatia. Infatti, sulle pagine dei più importanti giornali americani, vi è una serie di illustrazioni che ritraggono gli americani che prendono in giro gli italiani che lavorano. Ad esempio, in una di queste vignette in cui troviamo un italiano al lavoro, c'è un calzolaio mentre inchioda una suola di una scarpa e la didascalia recita un camorrista calzolaio nel quartiere italiano. In un'altra invece vi è un arrotino italiano che sta affilando un coltello, affila lo stiletto un assassino italiano a New Orleans. Ma la migliore è quella apparsa sul The Judge, che in italiano sì significa giudice ma anche estimatore, intenditore. La figura ritrae uno sbarco di topi con dei cartelli con scritto mafia, camorra, anarchia. La didascalia recita: la discarica senza legge, l'invasione giornaliera dei nuovi immigrati, direttamente dai bassi fondi d'Europa. Attento, zio Sam, arrivano i sorci. Effettivamente c'è da dire che questi immigrati vivono come topi all'interno delle baracche che formano i ghetti delle grandi città, New York, Chicago, Boston. Ed è proprio a 70 chilometri da Boston che Nicola Sacco vive in una di queste baracche. Sono mesi difficili, fa la fame, lavora saltuariamente e veste sempre gli stessi abiti, fino alla svolta. Viene assunto come operaio specializzato in una fabbrica di calzature a Milford. Lavora 10 ore al giorno, per 6 giorni alla settimana, guadagnando un salario che varia dai 25 agli 81 dollari. Non male. Coi primi soldi riesce a comprarsi finalmente un vestito bello, decente, una giacca, un pantalone e poi quello che per l'uomo è la base, le scarpe. Quelle che quando passi fai lo scroscio in modo che la gente si può accorgere che stai passando. E poi il tocco finale. Il vero simbolo dell'eleganza maschile, un cappello. Quello da togliersi al passaggio di qualche bella signorina, magari sognando quella giusta. A good morning, bella signorina. A good morning, bella signorina. Good morning, bella signorina. Good morning a lei, bel signore. Quella signorina è quella giusta. Rosina Zambelli, la donna dalla quale Nicola avrà due figli, Dante ed Ines. Il suo sogno americano sta diventando realtà. Ha addirittura una casa con giardino, nella quale ha anche un orto. E lì lavora, prima di andare in fabbrica e appena tornato a casa. Comincia anche a prendere parte alle attività degli ambienti sindacali in favore dei lavoratori sfruttati. E nel 1916 partecipa ad una manifestazione contro un'azienda di cordami, la Plymouth Cordage Company. Un gruppo di persone sta manifestando in favore dello sfruttamento contro lo sfruttamento della classe operaia. Sì, perché ci sono queste persone stanno manifestando e a guidare quello sciopero c'è un altro immigrato italiano. Noi non vogliamo più lavorare perché ci maltratta e continua a sfruttare. Noi vogliamo salari più alti e migliori condizioni di lavoro. A guidare quello sciopero Bartolomeo Vanzetti, il Vanzetti. Bartolomeo Vanzetti, il Vanzetti, è un altro immigrato italiano che viene da Villa Falleto, provincia di Cuneo. È figlio di un proprietario terriero, nonché gestore di una caffetteria. Anche egli, come Sacco, non ha reale necessità di emigrare, ma decide di farlo dopo la morte della madre, evento questo che lo spinge quasi alla pazzia. E così, dopo due giorni di viaggio attraverso la Francia, si imbarca da Le Havre il 15 giugno del 1908, destinazione New York. Al centro di immigrazione ebbi la prima sorpresa. Gli immigrati venivano smistati come tanti animali. Non una parola di gentilezza, di incoraggiamento per alleggerire il fardello di dolori che pesa così tanto su chi è appena arrivato in America. Dove potevo andare? Cosa potevo fare? Quella era la terra promessa. Ho lavorato molto all'inizio. Ho preso tutto quello che mi è capitato. Ho lavorato in varie trattorie, in una cava, in un'acciaieria e anche in un'azienda di cordami, la Plymouth Cordage Company. Proprio contro la Plymouth ho guidato uno sciopero. Dopo nessuno ha più voluto darmi un lavoro. E allora mi sono messo in proprio. Ho un banco del pesce. Per riempire i buchi della solitudine ho letto molto. Dante, Zola, Marx, Trotsky. Bartolomeo e Nicola sono sempre insieme. Cominciano a prendere parte alle iniziative del movimento anarchico. E proprio con il movimento, nel 1916, all'indomani dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, fuggono in Messico per sfuggire alla chiamata alle armi. Sì, perché per un emigrante, ma soprattutto per un anarchico, sarebbe stata una beffa combattere e morire in nome di uno Stato. Mentre il movimento è in Messico, comincia a preoccupare non poco l'America, che ha paura. Una paura incondizionata, quasi al limite della paranoia. Una paura rossa, una red scared. Il terrore che possa esserci un massiccio dilagare della febbre comunista e di tutto ciò che è ostile all'America. Addirittura il Ministero della Giustizia redige una lista nera di persone considerate pericolose. In quella lista ci sono anche i nomi di Bartolomeo Vanzetti, Nicola Sacco e Andrea Salcedo. Andrea Salcedo è un altro immigrato italiano che proviene da Pantelleria, è siciliano. E la notte del 3 maggio del 1920 si trova negli uffici del Bureau of Investigation, al 14° piano del Park Row Building. Bureau of Investigation, l'odierna FBI. Sono mesi che viene interrogato e arrestato in merito alla sua attività e alla sua appartenenza al movimento anarchico. Quella notte, la notte del 3 maggio del 1920, Andrea Salcedo da Pantelleria vola giù, senza ali, dal 14° piano. Secondo l'FBI c'è una sola ipotesi: suicide! Mentre per il Dipartimento di Giustizia e la Polizia di New York si tratta di it was an accident, una morte accidentale. Due giorni dopo, il 5 maggio del 1920, Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti sono insieme. Non sono sereni. Si guardano attorno. La paura rossa ormai è una costante compagna di viaggio anche per chi di quella paura è considerato un fautore. Sono armati. Nicola Sacco è in possesso di una calibro 32, Bartolomeo Vanzetti di una Harrington 38 e di volantini anarchici. Sì, perché stanno preparando un comizio. Un comizio che faccia aprire un'inchiesta per far luce sulle circostanze della morte di Andrea Salcedo. Ma quel comizio non avverrà mai, perché quella notte Sacco e Vanzetti sono su un tram. Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti. Yes, Nicola. Nicola, stai tranquillo. Nicola, stai tranquillo. Vedrai che ci stanno arrestando perché siamo anarchici e perché siamo renitenti alla leva. Stai tranquillo, non facciamo nomi e restiamo vaghi. Vedrai che ci rilasceranno presto. Turn right. Turn left. Bartolomeo. Bartolomeo, tengo paura. Sta tranquillo, sto sempre tranquillo qua. Ok. You are a gun of your hand. Yes. Show me your hand. Show me your arm. Thank you. Ok. Yes. Ma che stanno facendo qua? Ma mangi, togli pure il cappello. Metti il tuo cappello. Leva il tuo cappello. Mettiti il tuo cappello. Ufficialmente, Sacco e Vanzetti vengono arrestati perché in possesso di materiale anarchico. Ma in realtà è solo un pretesto per accusarli di crimini più gravi. Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti. Yes. Italians. Anarchist. Mr. Sacco, do you know what I'm talking about? Yeah? Can you understand me? Okay. Mr. Sacco, just to know, why do you like to go around with a gun? With a gun. Oh, yeah, bad times. Where are you? The 15th of April, 1920, at 3 o'clock in the afternoon. And you, Mr. Vanzetti? And if I say the Slater-Morrill Shoe Company. Slater-Morrill Shoe Company è un calzaturificio che si trova a Pearl Street, South Bantry, Massachusetts. Alle 3 del pomeriggio del 15 aprile del 1920, il ragioniere della fabbrica e la guardia giurata, in possesso di due sacchi contenenti $16,000, vengono rapinati e uccisi da due uomini con un cappotto nero, poi fuggiti a bordo di una Buick. Una delle due pistole è una calibro 32. Sì, li ho visti! Erano scuri e stranieri. Si vedeva da come camminavano e gesticolavano. Uno aveva anche i baffi. Erano sicuramente italiani. Ma non li ho visti sparare. Non li ho visti sparare. Non li ho visti sparare. Io ho visto, ho visto Nicola Sacco nei pressi della scena del crimine. Assomiglia a uno dei due rapinatori. Ma non l'ho visto sparare. Non l'ho visto sparare. Non l'ho visto sparare. Io ho visto, ho visto Bartolomeo Vanzetti scendere dal treno della stazione di South Bantry 5 ore prima dell'omicidio. Ma non l'ho visto sparare. Non l'ho visto sparare. Non l'ho visto sparare. Non l'ho visto sparare. Io ho visto, sì. Ho visto Nicola Sacco sporgersi dal finestrino di una macchina a 20 metri dalla scena del crimine. Ma non l'ho visto sparare. No, non l'ho visto sparare. Non l'ho visto sparare. No, non l'ho visto sparare. Nessuno li ha visti sparare. Nessuno li ha visti sparare. È un processo difficile quello al quale vengono sottoposti i due italiani. Le testimonianze delle accuse, il giudice Thayer, vertono più che altro su pregiudizi, su luoghi comuni, e approfittano non solo della scarsa padronanza della lingua inglese dei testimoni della difesa, ma anche della loro nazionalità. Inoltre, l'accusa impiega tutta la sua abilità per mettere in cattiva luce i due italiani e per metterli in difficoltà. Alle domande incalzanti del giudice e del procuratore, Nicola Sacco non può che rispondere con dei lapidari sì e no. In fondo, lui è stato sempre bravo a farsi capire con la bontà, con il suo cuore, con i suoi gesti. E poi a tutto ciò si unisce la lampante parzialità del giudice, dovuta alle sue presunte idee reazionarie. In parecchie occasioni ha parlato di Sacco e Vanzetti come di due bastardi. E così arriviamo al 14 luglio del 1921. Dopo più di un anno dall'inizio del processo, la giuria emette il verdetto. Guilty. Nicola Sacco, 30 anni da Torre Maggiore, e Bartolomeo Vanzetti, di anni 33, da Villa Falleto, vengono giudicati colpevoli. È un verdetto che suscita indignazione nell'opinione pubblica, da politici a scrittori, da artisti a scienziati. Tutti si mobilitano in favore dei due italiani, Albert Einstein, Dorothy Parker, George Bernard Shaw, il premio Nobel Anatole France. Tutti in favore di Sacco e Vanzetti. Anche il governo fascista di Benito Mussolini. Tutti si mobilitano per Nicola e Bartolomeo, per Nick and Bart. Here's to you, Nicola and Bart. Rest forever in our heart. Last and final moment is yours. Your agony is your triumph. Here's to you, Nicola and Bart. Rest forever in our heart. The last and final moment is yours. That agony is your triumph. Is your triumph. Libertà, libertà, libertà per Nick and Bart. Libertà, libertà, libertà. E mo! E ora aspettiamo. Ma li senti, Nicola? Li senti lì fuori? Gridano libertà per noi due. Libertà per Nick and Bart. Noi dobbiamo ringraziare chi ci ha giudicato colpevoli. Senza di loro noi saremmo morti come due poveri sfruttati. Un buon calzolaio, un bravo pescivendolo, ma mai in tutta la nostra vita avremmo potuto sperare di fare tanto in favore della tolleranza, della giustizia, della comprensione degli uomini. Noi non moriamo invano, ma io non voglio morire così. Io non voglio essere considerato un martire politico. Io voglio vivere, vivere, vivere. Negli anni si susseguono i ricorsi in appello per far liberare Sacco e Vanzetti. Ed è proprio in questi anni, nel 1925, il 16 novembre, che la battaglia per liberare i due italiani sembra essere arrivata ad una svolta. Un detenuto del carcere di Dedham, il portoghese Celestino Madeiros, riesce a far passare al vice direttore della prigione un foglietto con una nota indirizzata all'editore del Boston American. I heard to confess to being in the Shaw Company crime at South Bantry on April 15, 1920, and that Sacco e Vanzetti were not there. Confesso di aver partecipato alla rapina di South Bentry e dichiaro che Sacco e Vanzetti non erano presenti. Inoltre, Madeiros invita il nuovo avvocato di Sacco e Vanzetti, l'avvocato Thompson, ad andare in carcere e andare a trovare il capo della sua gang, Joe Morelli. Lì dice avrà una sorpresa. Quando Thompson ha di fronte Morelli, non crede ai suoi occhi. Lo stesso sguardo, gli stessi occhi, la stessa conformazione del viso. Oh my God! Joe Morelli è la copia sputata di Nicola Sacco. Questa prova sembra essere un punto importante a favore dei due italiani per riaprire il caso, ma per la corte ancora una volta non è così. Il giudice rigetta la testimonianza di Madeiros considerandola inattendibile, inaffidabile, falsa. 7 anni. 7 anni chiusi in carcere, 7 anni di tormenti, ma anche di letture. Bartolomeo Vanzetti in questi 7 anni riesce addirittura a perfezionare il suo inglese. 7 anni in cui entrambi hanno scritto lettere appassionate ai loro cari, ai loro amici, ai loro compagni. Scrivere per dare un senso alla prigionia. Scrivere per rendere quei legami immortali. Carissimo figlio, sin dal giorno che ti vidi per l'ultima volta ho sempre avuto idea di scriverti questa lettera, ma la durata del mio digiuno, il pensiero di non potermi più esprimere come era mio desiderio, mi hanno fatto attendere fino ad oggi. Non avrei mai pensato che il nostro inseparabile amore potesse così tragicamente finire. Ma questi 7 anni di dolore mi dicono che ciò è stato reso possibile. Però questa nostra separazione forzata non ha cambiato di un atomo il nostro affetto, che rimane più saldo e vivo che mai. Anzi, se ciò è possibile, si è ingigantito ancora di più. Molto abbiamo sofferto durante il nostro lungo calvario, carissimo figlio. E compagno, ricordati sempre, Dante, della felicità dei giochi. Non usarla tutta per te, ma conservane solo una parte. Aiuti i perseguitati e le vittime, perché essi saranno i tuoi migliori amici. Essi sono i compagni che lottano e cadono come tuo padre Bartolomeo lottarono. E oggi cadono per aver reclamato felicità e libertà. E per tutte le povere cenciose folle del lavoro, in questa lotta per la vita, tu troverai gioia e soddisfazione. E sarai amato dai tuoi simili. Bartolomeo Vanzetti. Ha qualcosa da dire prima che io emetta la sentenza definitiva? Sì, ho da dire che sono innocente. In tutta la mia vita non ho mai rubato, non ho mai ammazzato, non ho mai versato sangue umano io. Ho combattuto per eliminare il delitto. Primo fra tutti lo sfruttamento dell'uomo da parte dell'uomo. E se c'è una ragione per la quale sono qui, è questa, e nessun'altra. Lei ci vede, giudice Tyer. Sono 7 anni che siamo chiusi in carcere. Eppure lo vede. Davanti a lei io non tremo. Io la guardo dritto negli occhi. Non arrossisco, non cambio colore. Non mi vergogno, non ho paura io. Noi siamo stati processati in un periodo che è passato alla storia. Intendo con questo un tempo dominato dall'isterismo e dal risentimento nell'odio per il popolo delle nostre origini, contro gli stranieri, contro i radicali. E mi sembra, anzi sono sicuro, che tanto lei quanto il procuratore abbiate fatto tutto quello che era in vostro potere per eccitare i pregiudizi e le passioni dei giurati contro di noi. Nicola Sacco, il mio compagno Nicola. Sì, può darsi che a parlare io sia meglio di lui, Ma quante volte? Quante volte guardandolo, pensando a lui, a quest'uomo che voi giudicate ladro e assassino e che ammazzerete, quando le sue ossa, giudice, non saranno che polvere e le vostre istituzioni il ricordo di un passato maledetto, il suo nome, il nome di Nicola Sacco, sarà vivo nel cuore della gente. Io non augurerei a un cane o a un serpente o alla più bassa e disgraziata creatura sulla terra ciò che io ho dovuto soffrire per cose che non ho commesso. Ma è mia convinzione pensare che io sto pagando e soffrendo per colpe che ho realmente commesso. Sto soffrendo e pagando perché sono un radicale. E io sono radicale. Sto pagando e soffrendo perché sono italiano. E io sono italiano. Ma sono così convinto di essere nel giusto che se voi aveste la possibilità di ammazzarmi due volte, io per due volte potessi rinascere, tornerei a fare esattamente quello che ho fatto. 1927. Nel 1927 c'è stata la prima telefonata transatlantica New York-Londra. Viene fondata l'Academy Award. C'è l'alluvione del Mississippi. Nel 1927 Charles Lindbergh effettua il primo viaggio transatlantico non stop in solitaria New York-Parigi a bordo dello Spirits of St. Louis. Il 6 marzo nasce Gabriel Garcia Marquez. Il 16 aprile Papa Benedetto XVI. Il 4 giugno nasce Neil Simon. E il 23 agosto... andò a finire che poi presero posto su quell'ultima sedia in una notte d'agosto, spiati dagli occhi di quella povera gente, quando commisero orgoglio una mano diede corrente. Quel corridoio percorso una sola volta di chi sapeva che moriva di ingiustizia, di chi sapeva che moriva a testa alta, di quella paura che ancora oggi fa notizia, perché la gente ha paura, la gente ha paura, la gente ha paura, paura, paura, perché la gente ha paura, ha paura, ha paura, ha paura, ha paura. È giusto così, ripeteva la misera gente, in fondo di loro non sapremo più niente, ah, guardiamola bene questa morte sicura, che da domani avremo meno paura, perché avremo meno paura, avremo meno paura, avremo meno paura, avremo meno paura, avremo meno paura, avremo meno paura, avremo meno paura, avremo meno paura, avremo meno paura, avremo meno paura, avremo meno paura. Il 23 agosto del 1927 due uomini da 7 anni chiusi in carcere si preparano a morire. Nicola Sacco è il primo a percorrere il miglio verde, la distanza che lo separa da quella sedia, una vecchia Sparky. Le sue ultime parole sono state: viva l'anarchia, salutatemi amici e parenti. Buonasera, signore. Bartolomeo Vanzetti è nella sua cella. Dal calo intermittente delle luci sa che il suo amico sta morendo. Ed ora tocca a lui. Guardando negli occhi le persone che sono lì, dice: vi perdono per quello che mi state facendo, perché una volta erano gli altri ad avere paura di noi.